tutti, benvenuti a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. È una vita che non ci sentiamo in realtà sul podcast qui, siamo un po' arrugginiti, però vediamo un po' tutti insieme di ripartire. Allora, per l'occasione siamo in la crew è in una formazione nuova, siamo io, Cristian, dovresti dire Cristian. Ah, Cristian, certo. Sì, siamo arrugginiti. Cristian e? E ciao, sono Teo. Eccoci. Allora, Teo, vabbè, lo conoscete, cioè è la solita faccia da, però siccome siamo in podcast non si vede la sua faccia. Oggi sono voce da. Esatto. Allora, prima di tutto una parola per dirvi che diversi di voi ci hanno chiesto di ripartire col podcast, però, cioè, come dire, noi abbiamo un po' di limiti, nel senso che il tempo è soprattutto uno dei fattori maggiori. Non riusciamo a fare proprio tutto. Quindi, l'idea ce l'abbiamo, è da tanto tempo che ce l'avevamo, e quindi eccoci qua con la puntata. Questa prendetela un po' come fosse, un po' come la puntata di Hangout che ha fatto Teo. Cioè, proviamo un pochino a rilanciare il progetto e vediamo come va. Nel contempo vi segnalo anche che gli amici Federico, l'amico Federico si è messo in contatto con l'altro ragazzo che cura un blog sempre in tema, e vediamo un attimino di fare qualche collaborazione anche con lui. Quindi abbiamo un po', diciamo, due progetti paralleli sull'aspetto podcast. Vediamo un pochino l'aspetto multimediale di farlo crescere. Detto questo, lascio la parola momentaneamente a Teo, che vi parla un pochino del tema della giornata di oggi. Allora, visto che si sta avvicinando l'evento più interessante per il mondo ludico, quale migliore occasione per parlare un po' dell'Essen 2016, giusto? Oh yeah! Ok, quindi niente, vedremo un po' di farci questa chiacchierata, di farci due parole magari su 3-4 titoli, anche 5, anche 20, nel caso che ci possano piacere, che ci siamo messi in saccoccia da provare per primi o da portarci a casa a scatola chiusa, e vediamo un po' come va, insomma, se abbiamo altre cose da aggiungere sull'evento, o meglio su come vivremo l'evento stesso, direi. Ok, allora, detto questo, a parte che adesso mi è venuto in mente nel frattempo, perché mi era sfuggito prima, il podcast con il quale stiamo cercando di avviare una collaborazione è Il Dado Incantato di Paolo Bianchi, che è un podcaster già attivo con il suo podcast Scientificast. Torno adesso al tema invece di Essen. Allora, la prima domanda che ci rivolgiamo un po' tutti è questa. Allora, con che spirito ci avviciniamo a questo Essen? Cioè, vi sembra che sia che prometta di essere un Essen molto figo, molto ganzo, pieno di roba, o insomma mica tanto? Apro io? Facciamo? Vai. Dai, prendo la parola. Dal mio punto di vista mi sembra un Essen molto molto ricco, ma allo stesso tempo lo trovo molto più frammentario dal punto di vista di ciccia interessante rispetto agli anni passati. E dico questo principalmente per una grossa particolarità che ho visto comparire nella lista, diciamo che mi è balzata agli occhi. Su 642 titoli, adesso mi sembra che siano ufficialmente rilasciati nell'elenco, ce ne sono, facciamo un 150-200, che saranno solamente in prova. Siamo a 662 mentre parliamo. 662, ok, mi metti questo 640. Ogni quarto d'ora ne arriva uno, sì. Infatti fino al giorno prima sarà un delirio di aggiunte. E quindi ci sono tantissimi giochi che saranno provabili liberamente ad Essen, quindi gli editori avranno tavoli dedicati, dimostratori, eccetera, ma che poi vedranno la luce solo in seguito a campagne Kickstarter. Quindi, almeno parlo per il mio punto di vista, preferisco avere qualcosa su cui poter mettere le mani e soprattutto poter far mettere le mani a chi mi segue sul canale YouTube anche, perché altrimenti, cioè, giochi che poi bisogna lanciare durante la campagna, eccetera, diventano un po' più scomodi. Ecco, questo è il mio approccio, diciamo, alla grossa, tagliato alla grossa. Allora, prima adesso, Christian, voglio sentire la tua. Sì, prima di sentirla, cioè, do un grossissimo blu che lampeggia warning, perché c'è un warning potenziale che andiamo un fuori tema che fa paura, cioè diventa la puntata Kickstarter sì, Kickstarter no. Ma vai. No, non sarà così. Vai, Chris. Ok, allora, per quanto mi riguarda, dicevo, Ho aspettative medio buone in realtà su Essen, perché sono sempre ottimista e positivo, quindi a me va bene tutto quello che trovo. Tendo a non farmi liste, cioè c'è qualche titolo che ho addocchiato, ma sono molto pigro e quindi a differenza di Teo che scandaglia la lista ogni 44 minuti più o meno di BGG, io leggo i nostri articoli sul blog, cioè io mi autoinformo dal nostro stesso blog su cosa esce, perché sono un po' pigro da quel punto di vista. Lo sai che ne ho due già scritti in anticipo. Certo, ma io li leggo in anticipo, Ah, ecco. almeno quello. Comunque, dicevo, quindi non mi faccio delle grosse liste, c'è qualche titolo che ho addocchiato, poi dopo ne parliamo volentieri quando è il caso di parlarne. Poi si aggiunge che io vivo questa Essen in modo un po' particolare, perché ci sto andando in realtà più come autore quest'anno che come ospite, quindi diventa una roba più complicata, avrò relativamente poco tempo. E qui c'è la parte e faccio un po' il figo e faccio un po' il figo, ok? Perché ho pubblico dei giochi e voi no, va bene? Esatto, certo, è così. Ah, pezzenti, aggiungiamo. Oh, Bilici. bisogna essere un attimino, cioè, onesti nella vita, cioè, non è che devi dire ah, che fatica, no, cioè, vabbè, te sei figo perché pubblichi anche, bene, sono contento per te, mi fa piacere, anzi. Però volevo segnalare che beccano di più i recensori che non quelli che Esatto, pubblicano Essen. Poi, esatto. vabbè, nel senso. Vedremo, vedremo. Tra l'altro tu sei sposato, quindi. Allora, io vi dico una cosa, intanto do anche così qualche strumento, vabbè, chi non va a Essen, noi cercheremo di tenerlo informato, perché come tutti gli anni cercherò di mettere online qualche articolo di aggiornamento giorno per giorno di quello che ho visto durante la fiera. In ogni caso, anche per prepararsi, per fare proprio le proprie liste, dei preferiti, eccetera, io sfrutto, e lo dico così anche per chi ci ascolta, due o tre siti. Il primo ovviamente è BGG. BGG è il sito sul quale trovate proprio, c'è cioè, un elenco che è una BGG list, quella della preview di Essen. Il link lo trovate facilmente perché quando andate in home page c'è proprio un banner per andare lì sopra. L'unico problema di questa lista è quello che chiaramente mano a mano che i titoli arrivano vengono infilati all'interno. Quindi se io oggi faccio la faticona di girarmi 25-26 pagine, quelle che sono, e poi non lo so se magari in mezzo c'è arrivato un titolo, ma le dovrei sfogliare tutte. Per cui trovate dei link all'interno diciamo di questa maxi lista, andando in fondo nella prima pagina, trovate dei link anche a dei siti che la riorganizzano. Uno dei più carini è Tabletop Together. So che Teo lo usa. Decisamente sì, anzi, ci ho già fatto la donazione sia in Geek Gold sul sito che via PayPal, perché è stato sviluppato interamente da un solo ragazzo di nome Peter, che secondo me ha fatto un ottimissimo lavoro. È una sorta di portale, se vi collegate e vi chiede di fare un account è tutto gratuito, quindi non vi preoccupate, basta solo inserire l'indirizzo email, ma vi serve l'account per tenere traccia dei vostri giochi, quindi lui spulcia tutta la lista delle preview da BGG. E poi vi permette di dargli delle priorità, skip, ignore, like, want, need, mettere delle note, si possono aggiungere commenti e ha link diretti direttamente alla pagina dei giochi, alla pagina della preview e quindi si organizza il tutto, si possono poi stampare le liste solo di quelli in need, solo quelli in want, raggruppate per halle. Insomma, secondo me è uno strumento fantastico perché tutto quello che viene aggiunto semplicemente lo trovate filtrando per non prioritizzato. Quindi non Chris, esatto. dovete spulciarvi tutto, come diceva appunto Fabio, che è veramente Chris fastidioso. non sta dicendo niente perché cioè, lui è figo, però cioè, lui non se le prepara le liste, le legge le nostre e quindi non ha bisogno di usare questi strumenti. Ma Ma in è un realtà bellissimo io so. strumento, Non lo userò, ma è bellissimo. ecco, ok. No, tra l'altro la cosa carina è questa, che io faccio anche una sorta di controllo incrociato. No, su Tabletop Together cosa fanno loro? Mettono, cioè ogni volta che un utente ha cliccato per esempio un gioco dicendo questo mi piace, need, cioè lo voglio proprio, gli dà 5 punti, want 3 punti, like 1 punto. Facendo la somma di tutte queste preferenze che hanno messo gli utenti, gli viene fuori la top 50 dei giochi più attesi. Ed è una cosa carina perché in questo modo hai più o meno sempre visibili i 50 titoli che quella co comunità lì richiede di più. Nello stesso tempo, anche su BGG. Sempre un sito che sfrutta il feed di BGG, ha anche lui organizzato la lista. E uno dei modi per organizzare la lista è quello per pollici su. Quindi anche lì vedi un pochino tutto l'elenco, addirittura tutti i 660 giochi sono divisi cioè sono ordinati per pollici. Quindi io scopro, per esempio, che il gioco più atteso in assoluto su BGG è Seven Wonders 2 Pantheon, cioè l'espansione, con 200 pollici su. Mentre su Spiritop Together, Tabletop Together, il gioco che in questo momento è più atteso è, indovinate chi? Forza, forza, fatevi indovini. Io dico è Fist for Odin. Eh sì, ma te indovini, cioè per forza lo sai, l'hai visto 5 minuti fa, per colare. E la Crisco doveva dirlo, che lui non lo guarda. Fist for Odin, esatto, con 865 punti, quindi questo vi dice che comunque c'è, ci sono almeno a palmi almeno 150 persone che hanno usato quello strumento, e non sono pochissimi, in senso assoluto. Quindi, detto questo, vi leggo i top 10 di Tabletop Together, e poi magari di voi mi dite di questi cosa vi aspettate. Allora, io leggo Fist for Odin, Great Western Trail, che è Fister, il più Fister di quest'anno, Terraforming Mars, una sorpresa, Inis, che ha spaccato con 2K negli Stati Uniti, Codename Pictures, questo ce lo potevamo aspettare, poi un underdog, che è Fields of Green, Cottage Garden, Rosenberg, The Colonists, Oracle of Delphi e Key to the City London. Il peso medio è abbastanza elevato. Cosa dite? Sì, senza dubbio. Penso anche che ci sia comunque un target di utenti medio-alti, quindi cioè sì, gamer... Sì, la dice lunga anche su chi lo usa. Cioè, chi usa lo strumento di solito è, come dire, un gamer duro. Sì, io posso dire che, allora, sono tutti titoli di cui comunque si sta facendo un gran bel parlare in giro, anche su vari siti e blog in genere. Dal mio punto di vista, in realtà, di questa top 10 vi posso confessare che solo Great Western Trail è entrata nella mia need. Ce ne sono un paio che sono messi nella want, quindi il livello appena inferiore, tutti gli altri sono skippati. Ma io ho una specie di selezione a priori molto severa, diciamo, con dei paletti, e quindi molti di questi purtroppo escono dai miei paletti, e quindi... Ma tanto so che nel nostro gruppo ci sono quelli che si prendono i super cinghiali, ci sono gli appassionati di Feld, quindi comunque la top 10 sono certo che arriverà nella ludoteca gagliatese. Però per la mia lista in questo momento solo il Great Western Trail. Capito. Cosa simile anche per me, nel senso che anch'io non gioco i cinghiali, ma non ne sono un collezionista sfrenato, quindi gli ipercomplessi tendenzialmente tendo a un po' ignorarli delle liste. Ho delle cose che sto aspettando, che mi interessano, eccetera. Anche qua nella mia lista c'è poco, c'è Cottage Garden di Rosenberg, che sembra carino, ma il sospetto che appunto non sia un cinghiale, così mi dà l'idea. Così a naso dovrebbe essere Patchwork per 4, cioè detta... Sì, mi sembra una roba del genere, perché peraltro io adoro i tetramini, adoro le cose che si incastrano, quindi guadagna già dei punti, ma lo conosco per estetica, cioè perché ho visto 4 immagini sulla rete chiusa lì. Sì, non c'è nient'altro. Guarda, ti posso segnalare, cioè posso segnalare a chi ci sta ascoltando, che su questi pentamini in realtà è Fist for Odin ha questa componente inserita, nel senso che ogni giocatore sulla sua plancia dovrà utilizzare il concetto di patchwork, però sommando tipo il concetto di sfamare di agricola, ha messo dentro un po' di roba per un gioco con una quantità di materiali. Visto più che altro che parlavamo di Cottage Garden, mi sono un attimo inserito, perché sono perplesso su questo Cottage Garden, nel senso, patchwork è nella mia top 10 di sempre, nel senso anche come numero di partite giocate, funziona, ci piace. Però funziona anche perché in due giocatori magari hai quel quarto d'ora prima di uscire, oppure sera ormai tardi, dai, prima di andare a dormire facciamo una partitina. La mia perplessità è, ma quando ci si trova in quattro, c'è bisogno di giocare a patchwork? Guarda, ti seguo, nel senso che questo titolo qua, appena l'ho visto, è finito subito nell'elenchino. Dici, cavolo, questo qua, cioè, è un acquisto sicuro. Anche perché volevo farmi perdonare mentalmente da Rosenberg per il fatto di non aver preso patchwork la prima volta a Essen quando era uscito. L'ho scoperto dopo, poi l'ho scoperto e ho fatto tante partite. Però sono d'accordo con te, effettivamente mi è sceso mano a mano nella fase di scrematura, perché ho pensato la stessa cosa. Cioè, quel classico gioco, in due ci gioco tanto, ma in quattro... È l'occasione, cioè sto pensando all'occasione, ecco. Cioè, se voglio giocare a qualcosa di leggero in quattro, probabilmente giocherei a qualcosa più interattivo, nel senso con... cioè, in cui non sia così riempitivo, cioè, non so, patchwork funziona proprio perché lo fai quasi spensierato, ecco. Ma guarda, sai cosa ti... Adesso ho bisogno di voi. ho bisogno di voi, nel senso che... Allora, io periodicamente in questa fase, cioè, ho visto tanti titoli, perché mi sono smazzato parecchie volte le liste, eccetera, per fare le varie carrellate che vedete online lunedì. Allora, di solito questa cosa mi aiuta, nel senso che mi trovo poi ad avere dei listoni tutti gli anni di 30, 40, 50 titoli da tenere d'occhio. Allora, quest'anno ho nell'elenco dei titoli che sono acquisti sicuri per adesso una dozzina di titoli, ma neanche, e sono largo. Poi gli amici tipo Sergio e Berna che verranno con me a Essen mi dicono tranquillo, quando sei là troviamo. Però effettivamente quest'anno sono un pochettino, cioè sento che c'è un hype leggermente più basso di altri anni, complessivo. Perché per dirti, allora, Fist for Odin è un titolo che probabilmente, come dire, è un acquisto quasi obbligato, no? Cioè, voglio dire, è un gioco di Rosenberg, sono tutti solidi, di solito quando li giochi sono tutti, cioè, i suoi cinghiali sono tutti da provare, da gustare, quindi alla fine lo faremo. Non lo prenderò a Essen perché tanto so che la Cranio lo traduce in italiano, quindi è inutile che sto a prenderlo là in inglese, ecco. Però, come dire, so anche nello stesso tempo che lui è solido, ma non sarà qualcosa di esageratamente innovativo. Mm-hmm. Per fortuna sono usciti, adesso ne parleremo dopo, un paio di titoli che si sono insediati nei molto molto attesi, che sono Great Western Trail, ma anche a sorpresa Lorenzo il Magnifico. Ecco, io ho avuto dei feedback molto positivi di questo Lorenzo il Magnifico da un nostro amico qua che l'ha provato nelle fasi finali al Gioca Aosta quest'anno. Ok, esempio, ma dice, guarda, che è molto ben fatto. Io ho letto manuale, tra l'altro ci ho messo un po' per riuscire ad averlo, e ti dico, mi dà ottime aspettative. Adesso il gioco sembra proprio, diciamo, è costruito in un modo, allora, gli autori sono due degli ex a chi tocca, no? quindi sono, è una cosa, e il supporto è quello di Luciani. Quindi messi insieme, diciamo, sono alcuni autori di alcuni fra i giochi più che maggiormente mi sono piaciuti negli ultimi tempi. Ti fai conto che lo scorso anno nel nostro gruppo quello che è piaciuto di più è Grand Austria Hotel, che è più o meno, cioè, viene dallo stesso gruppo di persone. Quindi un pochino il gusto di Grand Austria Hotel, questo Lorenzo è magnifico, lo mantiene, anche se è un gioco completamente diverso, perché ha un motore a base di carte. Quindi il concetto è quello, che in sostanza tu hai un tabellone, all'interno di questo tabellone in ogni turno vengono posizionate 16 carte in sostanza disponibili. Ci sono anche altre azioni che puoi fare con i tuoi quattro pilottini classici, però il grosso è prendere queste carte che ti danno degli effetti immediati o degli effetti permanenti. Sì. Diciamo, costruisci molto un motore, almeno quello del genere manuale si percepisce. Ci sono anche tante idee tipiche dei giochi pregressi, tipo per esempio Marco Polo con gli aiutanti che fanno la stessa cosa che facevano i cammelli di Marco Polo e così via. Poi forse siamo influenzati dal fatto che è un gioco italiano e ci fa piacere di vedere un gioco italiano che è tra i più attesi nei cinghiali, ecco, anche questo. Ma che tutto sommato ci sta anche, secondo me, avere un po' di orgoglio, diciamo, perché secondo me rischiamo sempre di cadere nell'estremo opposto, ovvero sia, siccome è italiano dobbiamo essere un po' più severi, perché deve avere il respiro internazionale, non lo so, cioè, secondo me è un po' l'atteggiamento diffuso, è anche quello, che se lo fanno i tedeschi allora il gioco sicuramente è super settato, se è italiano forse no. E quindi in certi casi invece ci sono degli ottimissimi prodotti italiani. Ma guarda, oltretutto, se andiamo a vedere alla nostra top 100, cioè quella del, del nostro sito, sì, quella che abbiamo sempre online, in effetti... Quella che conta. Esatto, quella che conta, quelle altre, cioè, andiamo a vedere quelle di BGG noi, cioè quelli di americani, no, vediamo le nostre. Nella nostra ci trovi diversi titoli che sono pensati e o prodotti da italiani, cioè, voglio dire, vedi che comunque c'è Zolkin che è in quinta posizione, che non è male, e poi in buona, cioè, Grand Austria Hotel, Marco Polo e così via, cioè, poi la coppia Tascini-Luciani poi è una di quelle che, come dire, che ha spaccato ultimamente, ecco. Sì, ma poi in realtà ti posso ancora aggiungere che in generale a livello internazionale, gli autori italiani che pubblicano con editori italiani o che editori tedeschi, francesi o che sia, sono considerati bene. Cioè, curiosamente, siamo uno di quei paesi che gioca poco, ma che sforna degli autori considerati molto bravi. Guarda, oltre a quello ti dirò, abbiamo anche un pubblico, allora, il pubblico è ridotto, però mediamente è un pubblico informato, cioè tieni conto che comunque così tanti blog, così tanti siti come in Italia non li trovo all'estero, e i giocatori nostri sono proprio, cioè, sono proprio gamer, cioè proprio siamo più nicchia, tra virgolette, per tanti aspetti, ma anche belli soldi, e probabilmente anche quello è stato il terreno fertile per far venire su tanti autori. Può essere, può essere. Poi sono molto organizzati, perché comunque vediamo tutte queste. Adesso noi magari ci sta che ci sono anche in altri paesi, ne abbiamo meno notizia. Però vedo che, come dire, per essere un movimento relativamente piccolo, eccetera, produciamo tanti autori e c'è molto movimento, come tutte le varie iniziative che documentiamo anche sul blog, nei quali gli autori si incontrano. Certo. Quindi, però, detto questo, adesso invece dimmi un pochino a te, Teo, adesso un paio di titoli che aspetti, visto che ho parlato di Lorenzo il Magnifico io. Allora, guarda, in realtà faccio un offside, nel senso butto lì questo titolo, che è il calendario dell'avvento 2016. In realtà probabilmente non aspetta nessuno nell'universo, ed è in realtà un acquisto quasi, quasi sicuro che farò principalmente per... la figura di recensore, nel senso che l'anno scorso l'avevo adocchiato e avevo detto: caspita, me lo compro, così ogni giorno dall'1 al 24 dicembre faccio una specie di unboxing da un minuto della promo che c'è dentro al calendarietto. Sì. Quando ho proposto questa cosa un po' in giro, praticamente tutti mi hanno detto: è un'idea del cavolo. mi hanno fatto scendere un sacco il priscio su questa cosa. Che brutte persone. Ma sai cos'è, cioè... che in Germania c'è molto? Te fai conto che a mio figlio avevo comprato anche una scatolotta, poi per dire, lui l'ha aperta tutta lo primo giorno ovviamente, ma c'è una scatolotta tipo dei Playmobil che propone proprio una casellina per ogni giorno dell'avvento. Ogni giorno apri e ogni giorno trovi dentro una cosa, cioè tipo un giorno l'elmo, un giorno l'omino nudo, uno giorno una spada e così via, e quando arrivi in fondo hai messo insieme tutti gli elementi della scatola. Sì. In Germania c'è molto questa abitudine, da noi anche no, e effettivamente l'utente medio italiano riceve il calendario dell'avvento, lo apre tutto, mangia tutto il cioccolato, perché solitamente c'è il cioccolato dentro. Esatto, e quindi è questo che te lo fa un po' cadere. Però l'idea invece è che ci siano dentro un sacco di cosine, i tanti giochi, ogni giorno te ne gusti uno, effettivamente è carina, non ti fa smontare, cioè queste cose. No, infatti, allora, l'anno scorso ha fatto molto forza questa cosa che tutti mi hanno detto è una brutta idea, e col fatto che costava forse 45-46 euro, quest'anno costa 48, ho detto vabbè, boh, mi faccio convincere. Tornato da Essen ho scoperto che Rado ha fatto esattamente questa cosa, che ogni giorno ha fatto un filmatino, e quindi la mia rabbia è diventata furia omicida, ho detto l'anno prossimo lo comprerò. Ecco, quindi... dimmi un po' come si chiama esatto, che lo cerco su BGG mentre parliamo. Brettspiel, quindi Brettspiel Advents Calendar. Brettspiel, ok, no, Brettspiel come una sola, proviamo. Intanto che Fabio cerca, io posso dire che l'altro anno Essen, curiosamente, però ho visto fare questa cosa dell'aprirlo tutto assieme, cioè nel senso che io ho trovato alla fermata della metro fuori la fiera di Essen un calendario dell'avvento con dentro le promo tutto aperto e buttato lì, che chiaramente hanno preso tutte le promo che c'erano dentro e in espansione hanno scaraventato via. Oggettivamente 48 euro per 25 mini espansioni barra promo, credo che sul mercato si possa vendere in attivo. Sì, dici, ne vendi una alla volta, sì, ok, sì, le spezzetti, sei un maledetto venditore di spezzatini. ma infatti, cioè, a me poi potrebbe anche venire buono, perché nel senso, a quel punto, se può capitare di avere dei gadgettini da dover dar via per qualche evento, per qualche collaborazione, rimangono, insomma, cioè, era più il gusto di fare questo esperimento, un video al giorno da un minuto per farlo, quindi... Allora, intanto proprio... sto guardando cosa esce, cosa c'è dentro, ci dovrebbe essere, probabilmente... Dentro, se ti interessa, Lo sai? Sì, l'avevo già aperto dalla Frosted Games, quindi, okay. Perché sono proprio gli editori, e ti posso dire che dentro ci vai a trovare espansioni per Arcadia Quest, Arkwright, Broom Service, Böhmisch Dörfer, che non so cos'è, Cacao Chocolate, Camel Up, Cards, Crisis, Oracle from Delphi, i portali di Moltar, Gold West, Guilds of London, Ansa Teutonica, Imhotep, Istanbul, Karuba, King of Tokyo, Mysterium, Panic Club, Quadropolis. Potevi dirmi anche sui più importanti. Saboteur, Tallinn, West of Africa e Zoloretto. Quindi grandi classici, ma anche giochi appena usciti. C'è il fatto che c'è anche l'oracolo di Delphi, per esempio, cioccolato di cacao. Sì, c'è un po' di... ma queste qua, tra l'altro ci dovrebbe essere anche un'altra iniziativa con multi-espansione. Ci dovrebbe essere un pacchetto di espansioni dei giochi che sono stati scelti per il Deutsche Spielpreis. Ah, sì. Sì. Mi era passato fra gli occhi, ma ormai questo era il goodie box che avevo puntato. Sì, ok, niente. Approfitto per segnalare allora che, come multigioco in una scatola sola, mi è passato sotto agli occhi un qualcosa che si chiama come Green Box of Games, una cosa simile. Si tratta in pratica di una specie di kit di carte con dei numeri, pipolini, dadi, un po' di cose con cui il regolamento ti spiega come giocare a tipo 40 giochi già editi, come quello di Catan, Lost Cities, eccetera. Sì, ovviamente senza dire che sono Catan, eccetera. Esatto, con una grafica diciamo fatta con paintbrush, però insomma. Sono un po' più perplesso su questa... No, allora. A me, sì, ecco, voi non lo sapete perché siamo via podcast, però mi stanno venendo fuori dei bollettoni, perché cioè io sono un po' allergico alle espansioni, nel senso che, allora, io di solito, cioè, come un po' tutti quelli che ogni anno giocano tanti giochi, diciamo, il tempo per annoiarti di un singolo titolo è difficile che lo trovi. Quindi cosa succede? In passato compravo tante espansioni e poi facevo tipo una partita e rimaneva lì anche l'espansione. Ho tenuto le espansioni in genere, economicamente sono anche piuttosto costose rispetto al gioco base, quindi hanno un senso se le ammortizzi giocando. Negli anni ho sempre teso a non comprarne, l'anno scorso per esempio ne ho prese due, ho preso l'espansione di Legacy, Duke de Crécy e l'espansione di Russian Railroad, e di due espansioni devo aver fatto una partita. Quindi adesso mi parlate di pacchetti con 24, 48 espansioni, 5, 10, e io mi dico, vabbè, se poi la compro chissà se riuscirò a giocare un pezzettino, vabbè, tutto lì. Dici qualche titolo strano, Teo? Guarda, ti posso dire il titolo che più mi elettrizza, facciamo così, che sono sicuro che voi non avrete messo perché è proprio il mio target, che è separato dai tuoi target, soprattutto Fabio, che è Chimer, della Gameflow. Ce l'hai fatta. Esatto. Non ne ho idea. Me lo googlo. Allora, gioco per 2-5 giocatori, durata circa 40 minuti, tipico target family. In sostanza, la grafica è molto bella, molto stile un po' fantasy, chiamiamolo così. In pratica i giocatori hanno davanti 4 plancettine su cui comporre 4 chimere fatte da 3 pezzi, testa, corpo e coda. Ah, questo l'ho visto, ho visto il video mentre lo facevo. Sì, l'ho visto. L'ho tolto dalla mia lista, però l'ho visto. Immaginavo. È giusto che siamo complementari. E al via, in pratica, tutti i giocatori cominciano ad accaparrarsi pezzi di chimere. Possono anche piazzare pezzi di chimere nei posti degli avversari. Quando tutti hanno riempito i 12 spazi, hanno un attimo per rimescolare i pezzi delle chimere che hanno collezionato, per poi fare le 4 sfide che sono state scelte a inizio partita in mezzo al tavolo. Le sfide sono ad esempio sulla più pesante, su quella più aggressiva, eccetera. Ovviamente ogni pezzo ha delle iconcine che ti dicono le caratteristiche di quel pezzo di chimera. Ah, quindi ma in tempo reale? Sì, la prima parte è in tempo reale. No, perché io avevo visto un video che aveva registrato, c'era Caroline... una ragazza che lo faceva, sì, che lo girava con Eric Martin e faceva vedere come funzionava, però non avevo colto siccome chiaramente lo faceva almeno vedere. Nel regolamento è specificato contemporaneamente e poi 30 secondi per rimettere a posto le cose, quindi non avevo ancora il regolamento, ecco, perché no, era interessante. Allora sì esatto, cioè probabilmente è molto caotico, nel senso hai pochissimo controllo sulle scommesse finali. Però c'è questa interazione, questi personaggini così, ti dico, secondo me rientra molto nei miei canoni ed era un titolo che sicuro non avevate nelle vostre. No, è finito nella mia lista, guarda. Eccolo. Invece, allora, di solito un'occhiata particolare noi la diamo anche alle case, quelle proprio strane, perché cioè Essen, capiamoci, quando vai su, ok, lo guardi, che cosa produce la Ansem Gluck, cosa producono la Eggert, perché sono, poi sono quelli che compri anche, le portate via. Però, come dire, quelli sai che durante l'anno li ritrovi. Invece, tipo le case taiwanesi, coreane, giapponesi, eccetera, eccetera, tutti i gamer si buttano a comprare i titoli di queste case. Allora, un pochino questi lo sanno e ci macicchiano. Cioè, perché effettivamente in mezzo, cioè la qualità media non è, diciamo, identica alla qualità media di tante case consolidate. Però ci sono dentro delle piccole perle tante volte che altrimenti non le pescheresti. Lì dentro cosa hai trovato? Sai che quest'anno niente? No, davvero nessun gioco nella prima fascia di quelli che ho selezionato. Proprio per quel motivo che dicevi tu, cioè tutti gli anni qualche piccola perla la trovavo, però ho trovato sempre abbastanza... non giochi così che mi rimanevano nel cuore. Quest'anno non ho trovato neanche nessuna dinamica davvero un po' originale, se devo essere sincero. Quindi da quel punto di vista, in quel mercato non ho selezionato niente. Ho tanti giochini di editori minori, quindi neanche nei padiglioni meno frequentati, ma Japan Brand e similia, Taiwan Board Game Design, eccetera, nessuno. Guarda, io in quella zona so che dovrò vedere Roundhouse. Roundhouse, che è della Emperor S4, perché è la stessa casa che l'anno scorso ha fatto Burano. Sì. Che è un gioco... Allora, complessivamente ci ho giocato relativamente poco, perché poi funziona così alla fine, però comunque aveva delle idee leggermente diverse dal solito. Lo scorso anno poi avevo trovato Ponzi Scheme, che... Quello è un capolavoro. Esatto. che è un giocone che è finito infatti neanche nell'auto 100%, essendo in pochi che l'abbiamo giocato non è roba da poco. Quindi quest'anno vado a cercare questo Roundhouse, l'unica cosa che tardano a mettere sul manuale. No, quindi... sono uscite le regole, perché l'ho letto io. Sì, ma erano uscite, prima uscite solo in doc, cioè senza immagini, esatto. Onestamente. Poi l'altro giorno erano uscite solo in cinese, e adesso può essere che magari adesso se vado a vedere... No, io ho in mente il doc, che quindi ho letto com'è il flusso di gioco, però senza avere le immagini davanti. Ma sei un drago, perché cioè un gioco, un cinghiale, capirlo senza neanche le immagini, Cirillo, sei veramente un fenomeno, sei io. No, ma qualche immagine su BGG la trovi, Se non ci sono le immagini relative. Poi diciamo, io mi sono spulciato dopo la prima falciata 126 regolamenti, e ovviamente non li ho letti tutti riga per riga. Sì, spulciata, sì, ok. Inizio a leggere quando... apprendo più o meno come gira il gioco, me lo metto in provalo ad Essen o mettilo un po' sotto. Ecco, mentre stiamo parlando comunque sto scaricando il regolamento in inglese. Okay. Va bene, allora, ragazzuoli, siamo agli ultimi 3 minuti di questa registrazione. Sì. Anche perché preavviso già che facciamo anche una seconda parte, cioè un Essen, un aspettando Essen parte 1 e parte 2. Questa è la parte 1. E essendo comunque un one shot, cioè una puntata zero, perché abbiamo la 0.1 e la 0.2, essendo una puntata comunque di inizio, non vogliamo andare tanto pesanti subito, quindi stare sulla mezz'oretta. Ok, sapendo che ognuno di voi ha uno, massimo 2 minuti, mi parlate di un altro titolo che volete segnalare. Ma allora, io in realtà non ho parlato neanche del primo, ma... allora c'hai un minuto in più, dai. Ok, vai. No, vabbè, io sto aspettando, sono un po' forse più mainstream, sto aspettando Near and Far, che mi aspetto sia almeno probabile, se non in vendita. Questo non lo so perché non l'ho seguito. Che cos'è sta fare? Near and Far, la versione, diciamo, una versione avanzata di Above and Below. Ok, ok. Con una meccanica, tra l'altro, molto interessante, una componente un po' alla... Legacy, nel senso che puoi sviluppare la campagna, il personaggio andando avanti su più scenari con questa mappa sul quaderno ad anelli, mi ispira molto e quello è uno che vorrei provare, poi tanto uscirà in italiano, quindi lo prenderò poi dagli editori italiani quando uscirà. Poi mi ispira Fields of Green, su quello sono abbastanza allineato con la massa, stranamente, perché sembra che sia uno di quelli più attesi. E in realtà... Ci sarebbe un discorso da fare su Fields of Green. Scusa? Ci sarebbe un discorso da fare su Fields of Green, nel senso che Fields of Green è l'adattamento... cioè una reimplementazione di Among the Stars, che io adoro, quindi in realtà guadagna punti, in realtà ha aggiunto più cose rispetto a Among the Stars, quindi una reimplementazione e ampliamento. Esatto, però il concetto che volevo introdurre è questo, coloni imperiali, Colony, cioè questo progetto mi ricorda molto quello che è stato fatto da Portal in Colonie Imperiali, cioè hanno reimplementato le meccaniche che avevano già utilizzato in 51 State, che era un gioco ad ambientazione. Dicevi? E New Era. Esatto. L'avevano messo lì dentro, cioè, aveva avuto un seguito, però non così clamoroso per via del tema fantascientifico, post-apocalittico, eccetera. Ci metti dentro dei tranquilli pacifici omini che coltivano in pascoli verdi e diventa adatta al grande pubblico. E certo, mi sembra che Filzo Green stia succedendo più o meno lo stesso. Allora, può anche essere sia così, fermo stando che a me sembra che ci sia stato più ampliamento, mentre in realtà tra Sono d'accordo, 51 State e Colonie Imperiali è esattamente lo stesso gioco, saranno cambiate due carte forse, per il resto è identico. Okay. In realtà io non ho nulla contro quell'operazione, nel senso che non è un problema di riciclare. È un problema del fatto che hanno toppato chiaramente e drammaticamente il target. Ci hanno fatto un gioco che ha venduto un decimo di quello che poteva vendere, perché hanno fatto una grafica scura, cupa, toni scuri. Ci hanno fatto una roba che lo allontana dal 90% del pubblico. Quindi, ben venga. Tanti l'hanno comprato che non avrebbero mai comprato l'altro e tuttora non lo comprerebbero. Ecco, quindi vedi che se ne parlava qualche giorno fa con un lettore. L'ambientazione è importante. Importantissima. È vitale perché la maggior, cioè adesso il gamer duro e puro, quello che fa anche i playtest, il gioco lo gioca anche senza ambientazione, però insomma se c'è qualcosa di gradevole che guardi mentre giochi, cioè è tutt'altra cosa, ecco, cioè. Assolutamente sì. E poi l'altra cosa che sto aspettando, a parte il mio gioco non lo metto nell'elenco perché sarei stronzo, però ovviamente lo sto aspettando, a proposito, faccio il misericordioso. Guilds, la maggior parte, no, nel senso che c'è piccolo piccolo spazio pubblicità. Ma tanti lettori già sanno che esiste, quindi non è utile parlarne, nel senso che sono tranquillo. Però oggettivamente lo sto aspettando forse più degli altri per ovvi motivi effettivi. E poi sto aspettando l'Azure Goblet, che in realtà ho avuto modo di provare a Norimberga il prototipo con Lorenzo della Horrible e mi è piaciuto tantissimo. Quindi è un bellissimo party game, molto molto carino, con queste coppe, il veleno, anche la gestualità degli effetti, che per guardare nella coppa, che è un'azione che rappresenta l'annusare, lo annusi, mentre annusi guardi nella coppa. È molto molto carino, quindi quello finirà nella saccoccia quasi sicuramente. Ok, Teo, hai l'ultimo minuto? L'ultimo minuto potrei sprecarlo con Single Card Game. Beh, allora non lo sprechiamo proprio, salutiamo tutti. No, in realtà, guarda, allora butto lì una cosa intrigante che però appunto mi rimane con un gigantesco punto di domanda, che è Macroscope, visto che stiamo parlando di case editrici minori, della Lifestyle Board Games. In sostanza crei un accrocchio, una specie di super tavolone sotto al quale inserisci un'immagine, c'è il blocchetto di immagini già fatto nel gioco. Dopodiché, secondo una meccanica di gestione dadi, toglierai dei pezzettini da sopra questo accrocchio e vedrai dei frammentini dell'immagine. Lo scopo è identificare cosa c'è sotto. Ho un gigantesco punto di domanda, uno per il prezzo, che non è ancora uscito e non so quanto sono disposto a spendere per una cosa di questo tipo. Cioè, i materiali sono montati di cartone, quello che vuoi, però insomma. E l'altra è che non so, dopo che hai riconosciuto l'immagine, quanto tu sia capace di riconoscerla subito se la vedi una seconda volta. Ecco, dipende anche molto da quante immagini saranno messe nella scatola effettivamente. Ne vedo abbastanza dalle illustrazioni, sicuramente c'è un componente mnemonico, cioè un gruppo che ci ha giocato in 4 o di 20 volte e poi metti un novizio che non l'ha mai giocato, parco un po' svantaggiato, con un problema che spero in qualche modo abbiamo gestito, non ho idea, però l'idea è molto carina, davvero l'idea carina. Mi ha colpito, quindi è uno di quelli che vorrò vedere dal vivo, dai, ho usato il mio minuto. Va bene, ok, allora per adesso vi salutiamo perché siamo arrivati in fondo a questa puntata e un ciao a tutti da Fabio. Da Cristian. E alla prossima da Teo. E da Cristian, che avevo salutato in contemporanea a Teo. No, non va bene. Siamo un po' arrugginiti. Un salutone a tutti, grazie per la pazienza. Alla prossima, ciao. Ciao. Ok, allora, fatta. E andiamo subito a seguire con quella dopo.